Contro Festival si terrà dal 17 di dicembre, venerdì sera, parte alle 22 e si protrae poi per 48 ore continuamente in diretta non stop fino alle 22 del 19 dicembre, e ci saranno circa 96 gruppi, anzi circa 400 musicisti che si alterneranno mezz'ora per ciascuno nel Teatro Kismet Opera di Bari. È un appuntamento che sta riscuotendo sempre più successo, anche perché può considerarsi forse il punto di ritrovo di tutti i musicisti che poi fanno attività live in Puglia, e le novità sono principalmente legate anche al tema che verrà sviluppato, cioè il consumo anche e la produzione musicale comunque in Puglia, ma in tutta l'Italia. Interverranno anche dei personaggi, comunque degli addetti ai lavori che appunto praticano musica oppure la producono oppure ne scrivono, e poi la formula rimane più o meno invariata, perché è quella di suonare in acustico in diretta radiofonica, perché alla fine è un vero e proprio programma, però c'è anche la possibilità per il pubblico di assistere dal vivo alle performance degli artisti venendo proprio al Teatro Kismet Opera. L'unica prerogativa poi del Controfestival è quello di avere degli artisti che rappresentino la Puglia, quindi ci saranno dai gruppi esordienti che magari si sono formati da poco, a progetti che magari sono nati proprio durante le scorse edizioni del Controfestival, ma anche gruppi comunque non voglio dire più importanti, ma magari con una risonanza maggiore, che si alterneranno per mezz'ora l'uno sul palco in maniera assolutamente democratica, se vogliamo, ma comunque, ed è da rimarcare, assolutamente gratis, cioè sono tutte performance che vengono realizzate per puro spirito di voler suonare, di voler riconoscersi, non dico in una scena, ma quantomeno sotto anche appunto il nome del Controfestival, come rappresentanti poi della musica pugliese.